stupore. Là, nel lontano, nel nebuloso ciel, una fanciulla pallida mesta, la cerni, il piede lento conduce, e di catene avvinto. Ai, pietosa vision, mi rassomiglia quella dolce figura a Margherita. Oggi guardo quello spettro seduttor e fantasma maliardo che a chi fissa morma il cor torci il guardo anima illusa dalla testa di Medusa. Quell'occhio da celeste spalancato cadavericamente e il bianco sen che tanti ebbe da me baci d'amore. Sì, e Margherita in angelo mio, l'angelo mio. Guardo nella fata sogna ognul cole chiamò. Oh, strano vezzo il collo le circonda d'una riga sanguigna. Oh, la testa distaccata per sé o fu che la tolga.